Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica in cui esaminiamo i settimanali, periodici italiani e stranieri alla ricerca di qualcosa da leggere, qualche curiosità, qualche argomento che si rincorre e spesso succede nei settimanali non solo italiani e sembra prendere più importanza degli altri. Allora, c'è una notizia su cui in realtà io ero un po' incerto se, come dire, dare evidenza oppure no. L'ho trovata su Nouvel Observateur. Vi spiego perché avevo questa incertezza dicendovi di che si tratta. Si parla di scuola e il titolo di una inchiesta che compare sul Nouvel Observateur questa settimana, che è comparsa sul Nouvel Observateur di questa settimana, è abbastanza lapidario. Non voglio più andare a scuola. Ora, chi ha dei figli, gli ascoltatori che hanno dei figli in età scolare, sanno bene come questo tipo di protesta sia abbastanza ricorrente. Quindi c'è la curiosità di capire come mai una richiesta talmente banale, in qualche modo talmente quotidiana, abbia potuto meritare invece un approfondimento giornalistico. Ma così è. L'approfondimento appunto viene presentato per un caso francese, se ne è occupata Caroline Brizard su Nouvel Observateur. Di cosa si tratta? Si tratta di crisi vere e proprie di panico, cioè di una patologia in qualche modo che impedisce ad alcuni studenti, per fortuna pare abbastanza pochi, di recarsi a scuola serenamente. L'hanno chiamata fobia scolare, fobia della scuola. E non vorrei però, e questa era la mia incertezza, non vorrei con questi pochi minuti fornire un alibi in qualche modo a tutti i ragazzi, a tutti i bambini che magari così non hanno proprio tantissima voglia di recarsi a scuola ogni mattina, come è capitato a tutti noi. Tuttavia, dovere di cronaca impone, leggo qualche brano di questa inchiesta da Nouvel Observateur. La fobia scolare esplode, quindi si tratta di un fenomeno evidentemente in crescita. Sempre più adolescenti sviluppano una paura irrazionale che impedisce loro fisicamente di oltrepassare la porta delle loro scuole e che gli impedisce di seguire le lezioni. Perché e come guarire? Questa l'inchiesta di Nouvel Observateur. Ci sono delle cifre che ci danno l'idea di questo fenomeno. Sarebbero l'1% dei bambini e ragazzi in età scolare a soffrire di questa fobia della scuola, ma tuttavia dopo un trattamento di psicoterapia una buona metà di questi, 50-60%, spiega Nouvel Observateur, ritorna poi a scuola. Al contrario, il 30% della restante 50-40% che non riesce a superare questa fobia, il 30% deve essere poi invece seguito in strutture specializzate e qualcuno addirittura non riesce a superare. I professori, un altro sommarietto che accompagna questa inchiesta della Brizard, non immaginano il tipo di sintomi, la violenza dei sintomi degli studenti che spesso si esprimono non a scuola ma a casa. Quindi insomma la vicenda è circoscritta, si parla di un 1% di studenti e francesi per di più, e questo lo dico a beneficio anche dei genitori che possono sempre cavarsela dicendo queste cose non succedono in Italia, ma appunto l'1% di questi studenti avrebbe questo tipo di fobie. È una paura paralizzante, scrive ancora un osservatore, insostenibile, che non ha niente a che vedere con la cattiva volontà. Sempre più frequente, dicono gli specialisti, ci sono degli adolescenti che proprio non riescono neanche anche a superare il portone della scuola. L'1% di questi studenti è vittima proprio della fobia scolare. Vorrebbe addirittura andare in classe, riferisce Nouvel Observateur, ma non ci riesce, non può più farlo. La cosa più difficile è l'incomprensione del sistema scolastico, dell'amministrazione, come si legge qui su Nouvel Observateur, e dei professori che sembrano poco sensibili a riconoscere quando il disturbo è di una notevole entità. La psicologa della della scuola, riferisce una genitrice, mi ha detto che dovevo forzare, dovevo riportare a tutti i costi mia figlia in classe, ma questo era assolutamente impossibile, mi minacciava anche gesti estremi come di gettarsi dalla finestra e così via. Ripeto, questo non fa che aumentare il mio imbarazzo nel leggere questa notizia, perché poi questo tipo di reazioni anche un po' colorite sono spesso tipiche con quella che lo stesso Nouvel Observateur chiama la cattiva volontà. Però la scuola viene accusata di indifferenza, si chiede lo stesso Nouvel Observateur, forse troppo rigida o troppo d'élite o troppo concentrata sulle materie che deve trasmettere, che deve insegnare, poco preoccupata di una crescita complessiva. E questo è un problema più riferito forse al sistema scolastico francese. Dice, dopo gli anni 70 i licei, le scuole hanno accolto gli adolescenti preoccupandosi più appunto di trasferire delle nozioni e non della loro crescita complessiva. Da questa insensibilità derivano poi questo tipo di fallimenti. Si riferisce anche di una sedicenne, è un altro caso che viene citato, che fino a un momento che era sia un'ottima studentessa sia un'ottima sportiva, ma in seguito a un incidente appunto che le ha impedito di proseguire nello sport, ha sviluppato anche questa fobia della scuola come una sorta di rifiuto complessivo della vita seguita fin lì. Forse qui più che di fobia scolare si tratta anche di un disagio più diverso, ma tant'è, questo è l'insegnamento, l'avvertimento che ci viene dalla Francia e mi è sembrato giusto riferirvelo. Anche perché avrete sentito parlare di riforma della scuola anche da noi, di riforma dell'istruzione superiore. È un provvedimento che è stato preso nelle settimane scorse dal Consiglio dei Ministri, ha completato al Consiglio dei Ministri il complesso iter di approvazione. Sono una serie di norme che vanno a riordinare i licei, la formazione professionale degli istituti la formazione professionale degli istituti tecnici e a questo tipo di provvedimenti avrete letto magari sul Sole 24 Ore una serie di articoli che hanno spiegato via via un po' le modifiche. Dedica adesso un inserto speciale Famiglia Cristiana questa settimana in edicola, riepilogando anche quali sono le novità maggiori. Ad esempio ci saranno i licei con 6 indirizzi, classico, scientifico, artistico, linguistico, poi il musicale coreutico e quello delle scienze umane. L'orario settimanale per i licei sarà 27 ore, il triennio di 30. Le modifiche sono nell'obiettivo di dare una maggiore razionalità al complesso della formazione, diciamo dopo le scuole medie, come si chiamavano una volta, però comprendono anche delle modifiche più puntuali. Ricorda Famiglia Cristiana che c'è una riduzione delle ore di lezione, è una raccomandazione OCSE che lo chiede, non l'organizzazione degli studenti. L'orario settimanale quindi 27 o 30 ore, 32 ore negli istituti tecnici e 32 negli istituti professionali. Le ore sono sempre di 60 minuti, non di 50 come era stato consentito, rimane però una certa autonomia delle scuole che potranno gestire in maniera flessibile il 20% delle ore nel biennio iniziale e nell'ultimo anno. Ci sono nell'insieme, complessivamente, poi bisognerebbe fare un discorso puntuale, ma per questo vi rimando a questo inserto di Famiglia Cristiana. Nell'insieme si prevedono più ore di matematica, più ore di scienze, più ore di lingue straniere, cioè materie in cui siamo tradizionalmente un pochino più in difficoltà quando si va a fare delle classifiche, delle comparazioni con gli altri paesi. Si attende anche da questo tipo di intervento, che comincerà dal prossimo anno e interesserà i primi anni delle superiori per poi estendersi via via tutto il ciclo, si attende anche, dicevo, un migliore collegamento con l'università e l'alta formazione e un contatto più stretto, questo sempre reclamato, con il mondo del lavoro, quindi con degli stage, tirocini, l'alternanza scuola-lavoro e anche naturalmente con il territorio attraverso i rappresentanti del mondo delle imprese. Vi riepilogo brevemente quello che accadrà per gli istituti tecnici: sono previsti 11 indirizzi. raggruppati in due macro aree, il settore economico da una parte, quindi parliamo di amministrazione, finanza e marketing, il settore tecnologico, e qui andiamo dalla meccanica, i trasporti, l'elettronica, l'informatica, la grafica. E tra le novità che riguardano gli istituti tecnici merita segnalare che sono previste più ore di laboratorio di quelle che sono previste attualmente. E infine, Famiglia Cristiana ricorda meritoriamente anche quali sono le regole attuali per l'obbligo scolastico, obbligo che dura fino ai 16 anni, quindi per un totale di 10 anni, e questo obbligo naturalmente può essere assolto frequentando appunto gli 8 anni del primo ciclo elementari e medie e un biennio delle superiori. Questa istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria. Magazine 24. Restiamo ancora per qualche minuto sulla questione della scuola, perché giovedì con 7, che viene dato in allegato con il Corriere della Sera, rimane poi in edicola come sapete, Angelo Panebianco, che è uno degli editorialisti del quotidiano, è intervenuto sulla una delle polemiche che hanno accompagnato appunto la riforma delle superiori di cui vi parlavo. Una scuola senza bussola è stato il titolo attribuito alla sua rubrica, perché geografia, materia démodée, secondo i parametri attuali di scarso fascino, è la vita perfetta. A cosa si riferisce? Probabilmente avete letto che c'è preoccupazione per una riduzione nell'insegnamento della geografia dovuta proprio a questo intervento di riforma, a questi decreti legislativi che andranno a diventare efficaci dal prossimo anno scolastico. Però, scrive Panebianco, in realtà qui stiamo un po' parlando di una scoperta che non è una scoperta, perché dice: nulla come la scuola favorisce la diffusione di leggende metropolitane. Il disinteresse dei più fa sì che di scuola si parli solo quando vengono varati provvedimenti governativi, e questo devo dire è abbastanza vero. Così c'è gente che crede davvero che con la riforma Gelmini scomparirà la geografia dai programmi scolastici. Nessuno però si è dato la pena di controllare quale fosse fino ad oggi la situazione. Nel caso dei licei, ed eccoci allora a questi decreti di cui parlavamo, per esempio, la geografia era già stata largamente emarginata da gran parte dei curricula da grandissimo tempo. Provare per credere: scegliete un giovane a caso, magari uno studente universitario che considerate bravo e brillante, fategli qualche semplicissima domanda di geografia. Nel 90% dei casi, è la sconfortante previsione di Panebianco, otterrete non risposte o risposte bislacche. L'emarginazione della geografia dalla scuola ha probabilmente molte cause. La più importante è data forse dalla perdita di forza e status della corporazione, così scrive Panebianco, dei geografi, una corporazione, appunto, sempre per tenere il suo stesso termine, che avrebbe perso di vigore nel secondo dopoguerra, è diventata quasi in disarmo. Ora, è la conclusione della sua rubrica, sfido chiunque a negare che le nozioni geografiche siano importanti per capire il mondo in cui viviamo, o che siano una necessaria componente di quella conoscenza generale da richiedere a qualunque persona scolarizzata. Sono quindi più che convinto del fatto che la geografia debba tornare nelle scuole con il posto e l'importanza che aveva decenni fa. Va detto assolutamente a margine che in realtà sull'eurogeografia c'è stato un certo allarme anche prima del varo, e che complessivamente la materia non sparisce. È chiaro che la diversa redistribuzione, l'insegnamento di materie più tecniche o addirittura di una terza lingua, come è il caso di alcuni licei, chiaramente impedisce ad altre materie di ottenere lo stesso spazio. E allora, visto che parliamo di scuola, parliamo di vacanza, parliamo un po' di vacanze. Quanti giorni di vacanza si fanno nel mondo? Quali sono le città dove si fa più vacanza? Sono dei numeri carini che ho trovato su Wired questo mese. Le città con più vacanze sono Rio de Janeiro, 30 giorni di vacanza, e Lima. Così facciamo anche un po' di geografia, tra l'altro, per restare sul tema di Panebianco. Però anche Francoforte, forse sorprendente per qualcuno, così la sensibilità che abbiamo talvolta per la passione tedesca per il lavoro, Francoforte si piazza molto bene, sta a 29 giorni di vacanza in un anno. Parigi, Berlino, San Paolo e Vilnius stanno a 28 giorni di vacanza. Le città con meno vacanze sono Città del Messico in assoluto, 6 giorni di vacanza l'anno, Bangkok con 7 giorni e Shanghai con 8 giorni. Questi numeri li ho tratti dalla rubrica I grandi numeri, che appunto viene presentata tutti i mesi su Wired. Questo mese, tra l'altro, è stata dedicata a "E poi dicono che perdiamo tempo", cioè si parla sempre delle ore sprecate online, senza ricordare che ci sono delle ore buttate via nel traffico, in coda negli uffici pubblici o semplicemente non facendo quello che vorremmo. Allora, quanto vale ogni attimo della nostra vita, è la domanda. In Italia, ad esempio, si scopre da questa rassegna di numeri che in Italia ogni anno si sprecano 190 ore a testa negli uffici pubblici in attesa del proprio turno. Questo dà un totale, se lo moltiplichiamo per 45 milioni di italiani presumibilmente in coda negli uffici pubblici per queste 190 ore, dà un totale di 8 miliardi 550 milioni di ore, sono equivalenti a 356 milioni di giorni, con una moltiplicazione che fa abbastanza effetto. Quanto tempo poi si passa in fila? Sono 400 ore, ovvero 17 giorni in un anno. Buona parte di questo tempo che si passa in fila al volante. Vi auguriamo di non essere in ascolto di questo programma in questa condizione, ma vi informiamo lo stesso che appunto al volante della propria auto si perdono a Milano 16 minuti al giorno, a Roma 37 minuti al giorno. La città in cui si lavora di più, per chiudere con questa piccola rassegna di numeri, è il Cairo, 2373 ore all'anno, fa più o meno 9 ore al giorno. Le città in cui si lavora di meno sono due città francesi secondo questa classifica. Si tratta di Parigi e Lione, 1600 ore all'anno, fa circa 6 ore al giorno. Poi ci sarebbe il solito campanilismo tutto italiano: è vero che si lavora di più a Milano o a Roma? Allora, si lavora di più a Milano, a quanto pare, nel senso che nel 2006 risultavano più ore a Roma per anno, 1747 contro 1744, quindi 3 ore di lavoro in più a Roma. Ma nel 2009 questo dato risulta corretto, come segue: Milano al primo posto con 1808 ore, quindi un incremento significativo, e Roma si è ritrovata al secondo con 1771 ore, quindi ha aumentato le sue ore lavorative, ma Milano le ha aumentate di più di quanto abbia fatto Roma. Allora, visto che parliamo di scuola, abbiamo parlato molto di scuola, una vicenda che c'entra con la scuola e l'educazione è stata quella della sentenza di Milano che ha condannato a un maxi risarcimento i genitori di un gruppo di minorenni che hanno abusato di una ragazzina. Qual è il punto innovativo di questa sentenza? Che in questa sentenza il Tribunale ha detto molto chiaramente che la responsabilità del genitore nel mantenere, nell'educare i figli si estende fino al fatto di dovere un risarcimento se poi ci sono eventualmente delle vittime che da questa mancata educazione devono subire le conseguenze. Se ne occupa, ritorna su questa sentenza che è già di qualche giorno fa, Vita, il magazine del non profit. A Milano una sentenza destinata a lasciare il segno. Naturalmente qui il caso era particolarmente fastidioso e particolarmente esecrabile perché riguardava appunto gli abusi sessuali, ma la vicenda può essere estesa anche a fenomeni di bullismo. Che cosa era successo? Che tra il 2001 e il 2003 una dodicenne aveva subito abusi da 5 amici poco più grandi di lei. Nell'ambito del processo penale due dei ragazzi colpevoli hanno superato la messa alla prova, gli altri sono stati condannati a delle pene tra 2 e 3 anni, pene sospese. Ma il Tribunale Civile, che ha valutato la responsabilità relativa a questo reato, ha condannato tutti i genitori di questi cinque ragazzi a risarcire in solido la vittima del reato, cioè la ragazza, e i suoi genitori. La somma complessiva è stata fissata a 450.000 euro. Tra le motivazioni c'è appunto scritto in questa sentenza: i genitori hanno il dovere di impedire il fatto, non hanno impedito il fatto, educando i figli a sviluppare normali relazioni sentimentali e a dare valore alle altre persone. Quindi la responsabilità del genitore si estende anche appunto in casi come questi. È stato ripeto, l'aspetto civile della vicenda che viene affrontato da Benedetta Verrini su Vita, recuperando appunto questa sentenza resa dal Tribunale di Milano. E in chiusura, per i pochi secondi che ci restano, vi voglio segnalare due iniziative del Sole 24 Ore. Trovate in edicola con il Sole 24 Ore I Viaggi del Sole, il nuovo numero è dedicato a Lisbona e ai tesori del Portogallo. Quindi, come di consueto, il mensile si occupa di fornire indirizzi, testimoni di eccezione per quanto riguarda la visita alla città e itinerari particolari noti e meno noti. E poi da giovedì scorso, no, forse l'avete già visto, il Sole 24 Ore ha cominciato a proporre una collana dei grandi classici greci e latini. Abbiamo parlato molto di scuola, si tratta di materie assolutamente scolastiche. Sono 20 uscite dedicate ai testi, come dire, fondamentali della nostra civiltà. Abbiamo cominciato, a dir la verità, con l'Iliade da giovedì. Giovedì prossimo ci sarà l'Odissea e poi la collana prosegue con l'Eneide, la Metamorfosi di Ovidio, le Lettere a Lucilio di Seneca e così via, fino ad arrivare alle guerre di Cesare, di Giulio Cesare. Lo trovate in edicola con il Sole 24 Ore. La prima puntata, ripeto, è stata quella dedicata all'Iliade di Omero, e da giovedì prossimo troverete l'Odissea, sempre in vendita con il Sole 24 Ore. E così abbiamo concluso il nostro appuntamento di questa mattina. Vi do appuntamento a domani mattina alla stessa ora, alle 8:30. Ringrazio Manuela Sicuro e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questa puntata.